l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Questo è Darwin. Benvenuti a tutti e a tutti e ciao Chiara. Ciao Federico, ciao a tutti. Le nuove tecnologie in ambito di bioingegneria potrebbero accelerare la ricerca sul Covid-19. Oggi iniziamo così. L'utilizzo di cellule coltivate in 3D, cioè in tre dimensioni, e microorganismi artificiali possono essere impiegate per lo studio dei meccanismi cellulari, anche nel caso appunto dell'attacco di un virus, riducendo anche l'utilizzo della sperimentazione animale. Un gruppo del Politecnico di Milano sta lavorando su queste tecnologie. Ne ha appena pubblicato uno studio importante. Con noi c'è Manuela Raimondi, docente di bioingegneria al Politecnico di Milano e prima autrice dell'articolo. Benvenuta Raimondi. Grazie. Ciao Chiara, ciao Federico e grazie mille per l'invito. Per studiare i meccanismi cellulari forse adesso si stanno utilizzando delle tecnologie e delle tecniche un pochino obsolete. E le vostre invece tecniche potrebbero avere delle grosse potenzialità per facilitare proprio lo studio di queste cellule? Sì, allora vorrei subito chiarire che non siamo gli unici al mondo. Ci sono vari gruppi che stanno già usando queste tecnologie un po' più avanzate per fare studi di biologia. Il problema che da cui nasce la scrittura di questa review, di questo articolo che abbiamo pubblicato, è che invece le case farmaceutiche ancora non le stanno usando, perché le case farmaceutiche usano degli standard internazionali, chiaramente, perché gli standard internazionali ancora prevedono l'utilizzo di tecnologie molto obsolete. Quelle obsolete sono, linea di massima, il piattino per la coltura di cellule, cioè si prendono delle cellule, si tirano fuori dall'organismo, si inseriscono in un piattino piano e vengono coltivate così. Che tipo di strumenti utilizzate? Perché non è facile immaginare come che funzionano e di che cosa sono fatte queste impalcature artificiali per far crescere le cellule in 3D. Allora, le cellule sono microscopiche, dovete immaginarle come delle micro goccioline d'acqua, e quindi bisogna trovare un sistema di costruire delle piccole impalcature che siano alla loro scala. Noi utilizziamo una tecnica di fabbricazione con cui riusciamo a controllare la forma di polimeri, sono dei materiali polimerici, fino a una risoluzione altissima, in modo che loro possano, in modo da costruire delle microgriglie alle quali le cellule vengono fatte aderire, in un'unica popolazione, oppure meglio ancora in due o tre popolazioni diverse, che possono quindi anche interagire fra di loro. Uno dei vantaggi è che ci si vede dentro. Si potrebbe anche, ad esempio, simulare un organo artificiale, quindi capire come un coronavirus, facciamo un esempio a caso, può attaccare un polmone? Ecco, queste strutture sono quindi tridimensionali, quindi consentono, esattamente come stavi dicendo, di coltivare diverse popolazioni cellulari, di simulare un epitelio, ad esempio l'epitelio del polmone o del bronchio. L'epitelio sono i tessuti che costituiscono gli organi. Per esempio l'epitelio dei bronchi è quello che fa interfacciare l'aria che inspiriamo con la parte interna del nostro sistema respiratorio, e sono costituiti da strati di popolazione cellulare, alcuni strati più superficiali, alcuni strati più profondi. E quindi noi, mettendo le cellule in questo tipo di configurazione in un sistema tridimensionale, è abbastanza intuitivo che si riesca a studiare e a seguire anche su cellule viventi e con il virus che agisce nel tempo, si riesce a seguire la penetrazione, l'attacco del virus e la penetrazione all'interno dei vari strati. È cosa che con un sistema di coltura tradizionale, che era basato su un unico strato di cellule, chiaramente non si può fare. Come ci diceva all'inizio, questa cosa accelera ovviamente la ricerca, perché vi fa vedere, vi mostra in maniera chiara qual è il meccanismo, permette di evitare l'utilizzo di animali per la sperimentazione, soprattutto nelle prime fasi, cioè quelle dell'osservazione. Poi ovviamente l'inoculo forse è necessario comunque. Sì, anche su questo punto vorrei chiarire subito che la sperimentazione sugli animali è comunque un passaggio obbligatorio, non si può evitare, perché ci sono aspetti dell'interazione di qualsiasi farmaco con un organismo vivente che sono aspetti che si vedono solo su un organismo completo. Però tornando un attimo al nicchioide, quello che noi dimostriamo benissimo nell'articolo che abbiamo pubblicato è che utilizzando questo sistema tridimensionale non solo si vede dentro meglio come il virus che tipo di strada, che tipo di danno può produrre il virus, ad esempio a livello del polmone. Ma si vede anche, si riesce a riprodurre una velocità di questa infezione che è più simile a quella che si vedrebbe nell'animale, quindi più realistico. Poi si vede l'attivazione di marcatori, che è una cosa un po' tecnica, però è molto importante nella biologia. Cioè, siccome noi facciamo fluorescere le cellule in base a determinate risposte che danno, ed è quello che si va a misurare. Ecco, queste risposte all'infiammazione, all'infezione, sono molto più realistiche in un modello con diversi strati. Quello che si vede benissimo è che l'azione dei farmaci antivirali è minore in questi modelli tridimensionali rispetto all'azione che uno vede nel normale piattino di coltura. Cioè, anche questo si avvicina di più a quello che poi uno vede nell'animale. Cioè, il modello tridimensionale fatto un po' bene, con degli scaffold, queste impalcature tridimensionali un po' realistiche, stratificato, eccetera, è come fosse un punto di collegamento fra un modello molto semplificato su un piattino di coltura e il modello animale. Quindi secondo me è molto importante passarci, perché questo consente di minimizzare il numero poi di animali che si vanno a utilizzare per la ricerca. Buonissima ricerca allora, Raimondi. Grazie. Buon lavoro, Raimondi. Buon lavoro anche a voi, grazie. Per esempio, io vorrei un naso sferico come quello dei clown. Sì, non sarebbe male. Comunque ti metti in lista con la prof, ti fai costruire il tuo nicchioide e poi vediamo che cosa riesce a tirarti fuori. Ecco, ci spero. Va bene, grazie Federico, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui. Noi ci risentiamo ovviamente da lunedì al venerdì alle 20:50. Ciao Chiara e un saluto a tutti e a tutte. Ciao! Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.